Sono gli occhi dei bambini che fanno girare il mondo. Sono i sogni dei bambini che fanno tornare il sole. Sono gli occhi dei bambini che a volte fanno male. Sono i sogni dei bambini che fanno grande Natale e che fanno primavera ogni anno, e ogni anno ci ricordano l'età, che faticano a studiare poesie e cantano pubblicità. Sono gli occhi dei bambini che non vogliono dormire, che nascondono segreti che non potrai mai capire. Sono gli occhi dei bambini che ti prendono per mano. Sono i sogni dei bambini che ti portano lontano, dove un tempo volavamo e un giorno, forse torneremo là a giocare ancora col futuro, tra una bugia e la verità. Sono gli occhi dei bambini, mentre l'aquilone vola, che raccontano la vita, senza dire una parola. Sono gli occhi dei bambini che incontri a colazione, e ci vedi un po' di sonno, e che Dio non è un'invenzione. Sono gli occhi dei bambini che sconfiggono la guerra, che la fanno per giocare, buttandosi per terra, e che poi diventeranno grandi e un giorno forse capiranno che e con gli occhi dei bambini poi ci innamoriamo noi, ci innamoriamo noi, come i bambini noi.